Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, il popolo anche di Facebook e Twitter che ci segue. Ieri ho chiesto: l'Inter è come? È venuta fuori un po' così, improvvisamente. L'Inter è come? Un sacco di risposte divertenti. Luis Trevisan come un testimone di Geova, duro a morire. Devi Chinazzi, la fiaba di Cenerentola quando finisce la magia. Matteo Tarussello è come un cantiere aperto con fondi e macchinari a disposizione ma senza progetti, quindi inutilizzabile. Ma il più bello di tutti è questo. Più bello, più divertente, eh? Poi agli interisti non piace, evidente. Moreno Aguiari, l'Inter è come la cometa di Halley, passa ogni 40 anni. Massimo Calegari, mio e nostro amico, qui con noi. Ciao Massimo. Ciao, buonasera. Hai finito di fare surf? No, non ho ancora finito, mi diverto. L'Inter è come? Non so come sia, però mi sembra che invece di sadomasochismo, sano masochismo potrebbe essere una buona idea, no? Oppure Nanni Moratti, come l'aveva definito Crosetti quest'estate quando era lì nel Bailam di allenatori, potrebbe essere un'altra buona associazione. E credo che questa sera non sia ancora finita, perché arriveranno altri problemi. È appena cominciata. 800240024 per le vostre telefonate e messaggi, 349-238-6666, poi per l'appunto Facebook, Twitter e tutti questi strumenti di contatto con noi, ci fate molto piacere. Massimo, la partita della paura per aprire, quella di stasera appunto Inter-Roma, quella dell'ottimismo, non so se ti viene una definizione migliore per chiudere il programma di questa seconda danza di campionato, Napoli-Milan di domani, ancora non si sa se ci sarà Lavezzi, più no che sì, il Milan ha un sacco di assenze a cominciare da Ibrahimovic, uno degli articoli più divertenti di oggi è questo di Ibrahimovic che è in Svezia, col permesso del Milan naturalmente, a casa sua a Malmo. E così in compagnia di un noto miliardario di quelle parti si è fatto portare in elicottero a fare la caccia all'alce. È così che si guarisce dagli infortuni? Non so se sia così, però rimango convinto che gli atleti e i professionisti siano sempre uomini, e quindi se c'è qualcosa che può aiutarli a rilassarsi, a staccare la spina, che male c'è, a meno che non siano cose pericolose come lo sci e le moto. Naturalmente la partita di domani secondo me è anche una partita di verifiche, perché dopo un impegno così probante come quello del Napoli a Manchester, domani sera capiremo qualcosa di più sulla capacità di questa squadra, che già ha sorpreso in positivo in Europa, di reggere il doppio fronte. Oggi, sì, ad esempio il Leverkusen, che ha affrontato il Chelsea e ha pure perso e non è abituato a questi palcoscenici, è stato travolto in casa dal Colonia. Sì. Ma il Napoli sta bene. Sì, ieri ho dato una nota di cronaca statistica. Nelle ultime due stagioni, cioè quella scorsa e questa appena iniziata, il Napoli non ha mai avuto grandi infortunati. È una squadra che ha mantenuto molto a lungo la condizione l'anno scorso, sorprendentemente a lungo, una brillante condizione. E mi sembra che in questo momento sia quella che sta meglio dal punto di vista fisico. Lascia stare Lavezzi che ha preso una botta. Però mi sembra una squadra dal punto di vista atletico ben più in condizione rispetto alle altre. E secondo me è favorita sul Milan, su questo Milan pieno di assenze. Non lo so, nel senso che Arrigo Sacchi, che ti ricorderai temeva moltissimo e ha vissuto proprio questo doppio binario campionato Europa, anche se portava una pressione anche il suo tipo di gioco, la ricerca del suo calcio, dei suoi giocatori, che era enorme. Però lui e anche altri con i quali ho parlato in questi anni che giocavano in Europa hanno sempre detto: è vero l'aspetto fisico, ma prima di tutto c'è quello mentale. Quindi domani bisogna capire se Napoli dal punto di vista mentale, magari aiutato dal pubblico che sarà carico in maniera mille, spaventosa, riuscirà a reggere le conseguenze di quanto è successo e di quanto ha dovuto fare e produrre nella trasferta di Manchester. Mentre il Milan tutto sommato ha ottenuto, ma che è il massimo, più del massimo possibile, no? Giocando un minuto su 93. Ma è così che si gioca con il Barcellona, eh? Cosa sì, credi? Con quegli uomini lì poi vuoi andare lì a sfidarli sul piano certo calcistico, no. Ma neanche dell'intensità con gli uomini che ha a disposizione il Milan. Ma il Milan ha fatto una partita, vabbè, la partita che è stato costretto, però non starei lì a mille sofismi, alla faccia triste di Galliani quando dice: però loro che palleggiatori che hanno tenuto la palla sempre. Sì, però col Barcellona tu devi lasciargli la palla e devi essere bravo a non concedergli gli spazi, perché così, è così che si affronta il Barcellona. Piuttosto il calendario ha disegnato, per l'appunto con la complicità dell'Europa, un intreccio bizzarro, stavamo dicendo, mentre se guardi fuori la finestra non siamo lontani da San Siro, vedi il cielo? Condor. Vedi già i Condor nel cielo di San Siro. Per Gasperini certamente, perché magari un po' forzando, però somiglia ad un'ultima spiaggia. Luis Enrique magari la penultima, perché in settimana mi pare abbia incassato tutto sommato la fiducia dello spogliatoio, della società. Mi sembra una situazione vagamente più serena quella della Roma. Sì, anche perché solitamente, no, quando succede qualcosa all'Inter sempre tutto viene drammatizzato, soprattutto dall'interno, anche se Gasperini dice la bufera è fuori, tutto viene drammatizzato all'ennesima potenza. Però la differenza probabilmente sta proprio qui, cioè nel fatto che la società, non solo adesso ma anche dopo lo Slovan, aveva sostenuto Luis Enrique in una maniera che era sembrata più sincera e veritiera di quanto lo sono state e sono sembrate le parole le difese di Moratti, sì, nei confronti di Gasperini. Ma se, secondo me, se lì siamo alle solite, non è magari esattamente la situazione dell'anno scorso, però a grandi linee c'è un allenatore che è stato scelto senza grandi convinzioni dal presidente, perché lo sappiamo, valeva l'anno scorso, vale quest'anno. C'è una squadra che è lì nel mezzo, che sente questo fattore, cioè questa fiducia di fondo, comunque questa non profonda convinzione. Gasperini che cos'è? È l'allenatore del futuro per l'Inter, non ci credo neanche se me lo scrive Moratti con la sua mano, capito? Quindi c'è questa situazione ibride di fondo. Come l'anno scorso non sono stati comprati giocatori? Come l'anno scorso era l'Inter di Coutinho per forza maggiore, quest'anno l'Inter di Obi, l'Inter che abbiamo visto comunque l'altra sera in Champions League. Vedo delle analogie rispetto a quanto è successo 12 mesi fa. Sì, secondo me con un paio di differenze non da poco, a favore di Benitez, nel senso che era stato scelto, è vero, sempre lui, prima da Branca e poi accettato dal presidente in un colloquio in cui Moratti di pancia valutava se gli sembrava l'allenatore giusto per l'Inter, mentre ti ricorderai che poi venne smentito tutto, però a Parigi c'era andato lui a trovare Mourinho quando lo voleva. Certo. Però Benitez era arrivato scelto a maggio, inizio mercato, e aveva un progetto di giocatori ed era arrivato dicendo ok, però bisogna fare certe cose per cambiare un po' il ritmo e il tipo di gioco di questa squadra e per dare ancora motivazione al gruppo, quindi inserire nuovi uomini eccetera eccetera, ammesso che una squadra che ha vinto tutto deve per forza essere cambiata. Gasperini è arrivato dopo il terremoto di Leonardo e dopo una serie di altri nomi che erano stati fatti, quindi anche lui avrebbe dovuto probabilmente capire, e doveva essere chiaro per entrambe le parti, che bisognava un po' adeguarsi, cioè non era pensabile, no, fare il mercato a metà giugno prendendo esterni e giocatori per la difesa 3 eccetera. E quindi qui secondo me sta un po' il limite di Gasperini, il suo integralismo. Mi ricorda molto anche nel suo linguaggio del corpo quando parla in conferenza stampa del Neri dell'anno scorso alla Juve, cioè mi sembra un livello che lui non ha mai vissuto, non ha mai affrontato in carriera, di pressione e di gestione anche degli uomini, che è un po' troppo per lui, perché poi qui si parla sempre di gioco, no? Lo sapevamo, no? Si sapeva. Si sapeva, certo, però si parla sempre solo di gioco, ma questa è una squadra, come le grandi d'Europa, in cui bisogna anche avere una gestione. Io continuo a pensare gruppo, che, no? Continuo a pensare, nessuno mi toglie questa convinzione, che ci siano un sacco di bravi allenatori in giro. Gasperini è un bravo allenatore, Degli Rossi è un bravissimo allenatore, però sia un mestiere profondamente diverso fare l'allenatore di calcio e allenare un grande club. Sono categorie differenti. Ancelotti è un allenatore di un grande club, Mourinho è un allenatore da grande club, Ferguson è un allenatore da grande club, ma non perché siano più bravi di quegli altri ad allenare, perché gestire un grande club è un mestiere diverso dal fare un allenatore di calcio. Bisogna capello allenatore da grande club, bisogna avere determinate caratteristiche che non si possono inventare. L'ultima cosa, che non è mia, perché poi non è che uno deve prendersi a parte in età di cose che sente da dire da altri, ma me l'ha detto un mio amico che si chiama Matteo Lonardi, che lavora da noi a Mediaset, e dicevo giustamente, è vero il fair play finanziario eccetera, però l'Inter quando è arrivata a dover decidere l'allenatore aveva scelto e pensato prima a Villas-Boas. Se non avesse speso 12 milioni e mezzo per Alvarez, ne avrebbe avuti 15 a disposizione per prendere l'allenatore del Porto. Alvarez, che non mi sembra un giocatore che spacca, No, al momento no. Dicevo con con chi parlavo anche nel corso dell'estate, dal punto di vista così dell'entusiasmo istintivo, la mela vista in Argentina, so che tu non sei mai andato pazzo per lui, però mi dava più emozioni anche in prospettiva, no, rispetto ad Alvarez. La Roma l'ha pagato tanti soldi, non è un giocatore tutto da scoprire. Mai quanto Osvaldo, eh? Osvaldo, lascia stare Osvaldo, hai Borriello e vai a prendere Osvaldo, che in Italia somigliava... E Vucinic. Vucinic è un super giocatore. Giocatore straordinario. Ma state dormendo, ma svegliatevi, non vedo neanche un nome sul display delle telefonate. 800 24 00 24, numero verde. Come promesso, e le mantengo le promesse, do un paio di botte di cronaca che sono i risultati della B. Sassuolo che vince 1-0 ad Ascoli, gol di Masucci. Bari Nocerina 1-1, Rivas e Farias. Il Cittadella che batte 4-2 il Vicenza, e Baldini non lo vedo benissimo dopo questo avvio di campionato. Vicenza un solo punto. Crotone batte Empoli 2-1, Livorno batte Juve Stabia 3-0, Modena Gubbio 1-1, Reggina batte Pescara 4-2. Qui avrei delle cose da dire su Zeman che mi renderebbero molto impopolare, ma me ne importa niente. Sampdoria Grosseto 0-0, Varese batte Albino Leffe 2-1, è tornata la banda del buco o banda Zeman, allenatore che insomma è vero, gode di una aura di popolarità che io sul piano strettamente calcistico faccio fatica a condividere, no, è un simbolo, un paladino, come allenatore di calcio. No, come allenatore bravissimo a fare una parte di calcio, cioè la fase offensiva, però poi si gioca in maniera più completa anche dal punto di vista della preparazione fisica e in alcuni momenti anche della gestione della pressione. Qualche limite, anzi molti limiti l'ha dimostrati soprattutto quando era a Roma. E quindi insomma, però è chiaro che per realtà come Pescara, dove fino all'anno scorso comunque c'erano partite poco entusiasmanti, vedere partite belle, alcuni giocatori magari esaltati dal suo gioco, tipo gli attaccanti Immobile, Sansovini, eccetera, è già qualcosa. Dipende sempre da dove parti e dove vuoi arrivare. Sì, no? Sì, sì, però sicuramente quando... non si arriva a vincere con continuità. Però ecco, quando lo sento accostato, con equilibrio. Ma quando lo sento accostato, e succede ancora adesso, è successo anche quest'estate a grandi club come l'Inter, appunto. Francamente, a me sul piano strettamente calcistico viene da ridere. Poi. E però nel sano masochismo morattiano interista ci sta. Dici che poteva anche starci. Altra cronaca, tra poco parliamo anche di pallavolo, più tardi nel GR avete sentito che l'Italia del volley ha raggiunto la finale europea battendo 3-0 la Polonia. La cronaca di giornata dice anche che Stoner partirà in pole position al Gran Premio d'Aragona di domani davanti a Pedrosa. Quindi Spis e Lorenzo Rossi è scivolato ed è solo tredicesimo, ma qui nulla di nuovo sul fronte occidentale. Massimo, volevo parlare invece un attimo con te del Napoli e della due giorni europea, anzi tre giorni europea che abbiamo visto, perché c'è un'altra considerazione a margine che mi preme molto, anche se rischio di essere un po' ripetitivo. Riguarda l'impegno l'impegno delle nostre in Europa League. Io continuo a vedere, tu hai commentato l'Atletico Madrid. Sì, col Celtic. Sì. Stadio com'era? È quasi pieno, eh? Quasi pieno. Calderon quasi pieno, è caldo, eh? Col turnover? Un po', ma comunque con una rosa ampia, quindi un po' col turnover, eh? C'erano un paio di giocatori fuori, ma insomma ha debuttato Diego titolare, ha debuttato Falcao titolare, hanno segnato loro due, quindi invece gli altri hanno fatto turnover perché domani giocano contro i Rangers il derby di Glasgow. Invece qui io divento matto perché l'Europa League solo per noi è una scocciatura, possiamo giocare anche io e te, magari ci mettono in campo tra i titolari, ma questo dipende dalle società che dicono non me ne frega niente. Di conseguenza all'allenatore non frega niente, ai giocatori non frega niente, giocano le riserve, la gente non va a vederli, e poi succede che la Roma va fuori in quella maniera, il Palermo neanche a dirlo, la Lazio pareggia in casa con una squadra rumena di cui ho scoperto l'esistenza l'altra sera, e poi cosa dobbiamo dire? Dire che i punti del ranking valgono come quelli della Champions. Esatto. E che comunque... È il primo che piange le prende. In che senso? No, nel senso che non possono continuare a dirci ma il calcio italiano è in crisi, perché non vinciamo la Champions League. Certo che no, certo, no? Che no. Quindi, al di là di questo, Champions League, Napoli partita di grande personalità a Manchester, continuo a pensare, al di là degli scongiuri napoletani a partire da De Laurentiis che dicono meglio così, perché se battiamo il Manchester poi ci montiamo la testa, eccetera. secondo me, occasione sprecata quella di Mazzarri l'altra sera. È tanto però, è sprecata addirittura. Beh, traversa di Lavezzi, salvataggio sulla linea. Anche degli altri. E salvataggio sulla linea, inizio ripresa sul tiro di Amsic, quella pam che la tira fuori e poi passi in vantaggio, c'erano le condizioni per portarla a casa tutta. Poi magari ti manca un po' di esperienza perché così tanti sì, calci piazzati all'interno dell'area non li concedi. Sì, mancano un po' di cose, manca esperienza e probabilmente manca anche aspettativa, no? Per un tipo di prestazione del genere. Sono rimasti sorpresi sia Mazzarri, l'ha detto in maniera chiara, che De Laurentiis, magari anche qualche giocatore. Quindi quando sei lì, certo, pensi sto facendo una grande impresa, sono più forte di quanto pensavo e credevo, però ancora ti manca la convinzione di dire va bene, sono davvero più forte, così più forte di quanto pensavo da portare a casa i tre punti. E comunque contro una squadra che ha speso un budget illimitato, e quindi insomma non sto a dirti che il Napoli è più forte del Manchester City, perché non è così, no? Non è così nel gioco delle carte o delle figurine, però in una partita come quella dell'altra sera, che il Napoli ha giocato in maniera perfetta, ma anche dal punto di vista atletico, e torno su questo, su questo discorso, alla fine, visto quello che è successo, passi in vantaggio in quel momento, sinceramente io ho detto, a me sembrava fatto quasi. A questo proposito, girone del Napoli che è durissimo, sarebbe stato fondamentale, immagina tu, vincere su quel campo. Mi spieghi perché il Bayern Monaco a livello di opinione pubblica, almeno da noi, no, è così sottovalutato? Tu hai commentato Villarreal Bayern Monaco, sì, cosa hai visto? Lo sottovalutavo anch'io, sono sincero. Probabilmente perché lo associamo a un campionato che ha quasi sempre dominato, senza poi avere sempre lo stesso riscontro di risultati e di carisma in campo a livello europeo, no? Due anni fa è vero, arrivò in finale, però insomma col Manchester stava per uscire, l'anno scorso con l'Inter ha buttato via l'ottavo di finale, quindi però rispetto a queste due ultime stagioni mi sembra una squadra, questa è stata l'impressione, di una solidità, di una compattezza ancora superiori, e poi ha alcuni giocatori giovani di qualità, di enorme pazzesca, talento. Toni Kroos è un giocatore portentoso, e anche Gomez, che l'altra sera peraltro ha giocato male, però ha iniziato segnando 8 gol in 5 partite, quindi ed è una garanzia. Poi c'è Müller e poi ci sono tutti gli altri, quindi è una squadra che mi ha impressionato. C'è Robben ancora ai box, esatto, insomma, a me sembra una squadra pazzesca, poi magari mi sbaglio. Si sono svegliati, ce ne sono un sacco di ascoltatori adesso che hanno telefonato 800 24 00 24, ma se no bastava nominare Calciopoli e arrivavano lascia tutti. Stare parola abolita oggi. Marco Mantova, buongiorno. Buongiorno ragazzi, cambio un po' argomento rispetto al calcio internazionale, non intervengo su Calciopoli. Meno male, anche perché sennò cade la linea. No, volevo chiedervi una cosa riguardo al progetto del Milan e alle politiche societarie intorno a un giocatore che a me è ancora un po' sconosciuto, e parlo di El Shaarawy, che domenica probabilmente scenderà in panchina, in campo, nonostante comunque la sequela di infortuni che il Milan comunque ha in attacco. Parlavamo prima di Ibrahimovic, che è in Svezia, e comunque alcuni giocatori che non sono ancora al massimo della condizione, Cassano con partite alterne, quindi volevo sapere un'opinione su questo giocatore da parte vostra. E poi volevo anche sapere riguardo al progetto della Juve di Conte, come lo vedete, se anche secondo voi potrà concludere la stagione o seppure sarà un altro progetto come quello di Del Neri che magari verrà interrotto un po' bruscamente. Grazie mille. Grazie Marco, grazie. El Shaarawy mi sembra un giocatore di grande talento, forse non ancora pronto nemmeno dal punto di vista fisico, sentivo che comunque stanno lavorando fisicamente su El Shaarawy. È chiaro che lui è esploso praticamente 12 mesi fa, era semplicemente un primavera, ha giocato una grande stagione nel Padova. Mi sembra un giocatore di talento e di personalità, perché i giocatori di talento ce ne sono tanti, di personalità meno. No, è vero, l'anno scorso mi raccontavano, quando andai a Padova per la finale dei playoff della Serie B, che addirittura quando era arrivato sbagliavano a scrivere il nome, no? I giornali, perché non lo conoscevano, anche se nella primavera ha fatto benissimo. E dal punto di vista fisico ha avuto lo stesso problema che ha avuto quest'estate al tendine rotulo, l'aveva già avuto a gennaio. Quindi anche sul piano fisico ed eventualmente del potenziamento bisogna stare molto attenti, perché probabilmente non è ancora chiuso la fase proprio di crescita, no? È molto bravo, mi sembra che il Milan in generale negli ultimi anni sia stato anche troppo prudente con i giovani, nel senso che alcuni come Albertazzi, del quale si parlava molto bene, che adesso è nato al Getafe, difensore centrale che non ha mai giocato praticamente in prima squadra, erano lì e poi non sono mai stati neppure messi alla prova con un minimo di continuità. su El Shaarawy il progetto credo sia sicuramente più importante, però considerando come il Milan ha gestito i giovani negli ultimi anni, non so con quanta... Quando gioca. Esatto, quanto rischieranno, che... esatto, ecco, di farlo giocare magari in serate come domani, eccetera. Però lui dal punto di vista della personalità esatto. È molto sveglio. Sì. Mi sembra così. E poi se Cassano è quello di domenica scorsa con la Lazio, una Lazio che ha lasciato tempi e spazi adeguati, sì. È un conto. Sì, sì. Se gioca contro una squadra che corre come il Barcellona e il Napoli corre magari non come il Barcellona, ovviamente non ha la stessa qualità, però è una squadra che corre, allora... Perché non provare quell'altro? Sì, aggiungiamo che con Robinho e Cassano il ruolo è simile, soprattutto a Robinho, sì, e si assomigliano anche un po' come movimenti. Alberto, Milano, buongiorno. La Juve lasciamo stare. Juve, dopo. Abbiamo tempo, non ti preoccupare. Alberto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Carlo, senti, ciao. Prima una critica, magari potevi cominciare con notizie di altri sport abbastanza importanti, tipo la pallavolo, il mondiale di rugby, però va bene, ne parli dopo. Alberto, pallavolo perché l'abbiamo detta nel GR, poi tra poco arriva Andrea Zorzi. Ne parli dopo. Dai. Poi una diffida, non parlare mai più di Calciopoli, perché veramente ne abbiamo tenute le scatole, adesso è arrivato Moggi con questa novità, vediamo, ma lascia che ne parlino gli altri. A proposito dell'Inter, sto andando allo stadio, prima vado a farmi un Negroni perché mi sa che ne avrò bisogno. Io sono andato anche mercoledì a vedere la Coppa. Gasperini non cos'hai ha bevuto dopo? Cos'hai bevuto dopo? Guarda, veramente bisognava avere per dimenticare. Gasperini sicuramente non ha tutte le colpe, purtroppo abbiamo un presidente che è quello che è. Però io gli ho visto anche fare delle cose veramente incomprensibili. Intanto giocare con un palo della luce come Pazzini, che se non gli dai le palle dalle fasce non serve a niente, francamente mi lascia perplesso. Sotto di un gol o comunque anche prima toglie il centravanti per mettere un altro centravanti, poi toglie Zarate e mette Alvarez che è lento, ha solo il piede sinistro, lo mette sulla fascia destra. Cioè queste cose io non le vedo neanche nelle giovanili, quindi secondo me Gasperini fa parte di quel gruppo di allenatori bravi in provincia dove hanno ragazzi giovani, ragazzi poco conosciuti. Il Genoa di 2 anni fa si dice che giocasse benissimo, a me sembra che giocassero con la bava alla bocca, picchiavano come Fabbri, perché vero, e quel gioco lì all'Inter non lo puoi fare, presero 60 gol, sì, 60 gol, 60 gol. Cioè, sì, sì, peggior difesa anche l'anno scorso quando Gasperini fu mandato via dal Genoa, certamente il suo calcio, nel suo calcio le prendi. A me francamente Alberto sembra un allenatore un po' in stato confusionale, ma quella dell'Inter io poi torniamo a parlarne, io la interpreto non tanto come la crisi di un allenatore quanto come una crisi societaria dovuta a tanti motivi, però mi sembra che sia una crisi societaria in piena regola dovuta alla mancanza di sintonia probabilmente tra un presidente che ancora non ha ben chiaro il progetto da portare avanti e Branch, che ad esempio è l'uomo che ha voluto Gasperini, non ci sono misteri su questo, insomma mi sembra che all'Inter non abbiano ancora capito qual è la strada da seguire, o se l'hanno capita non l'hanno lasciata trapelare, insomma. Sì, no, è vero che sul piano così dell'individuazione delle caratteristiche dei giocatori qualche perplessità l'aveva destata anche a Genova, tant'è che l'anno scorso poi la situazione con Preziosi deflagrò quando Gasperini gli disse: io di quel Boateng lì non me ne faccio niente. E ora Gasperini disse, e Preziosi disse: va bene, lo diamo al Milan. Poi al Milan Boateng ha fatto cose ottime. No, il discorso è che cos'è che dà stabilità nel calcio a un club, a una società? Le vittorie. Se tu pensi all'Inter che vince lo scudetto a Parma, come lo vince con Ibrahimovic negli ultimi 20 minuti, e l'allenatore Mancini viene mandato via, vince la Champions e l'allenatore se ne va dopo 45 anni e il presidente e l'allenatore non si presentano neppure alla festa allo stadio, vince il mondiale per club, l'allenatore viene cacciato e se ne va, capisci? Vince la Coppa Italia, l'allenatore se ne va. La stabilità quando la trovi mai? Mica nelle sconfitte. Dunque torniamo adesso, immaginatevi un po', Massimo Calegari è qui con me, io faccio Guardiola, tu fai Mourinho, facciamo questo gioco. Okay. Allora, Guardiola ieri, parlo in italiano naturalmente, saprei perfettamente il catalano ma poi non lo capite voi. Faccio Guardiola, sono sicuro che quest'anno il Barcellona non vincerà niente. Mourinho oggi. Sono molto preoccupato perché penso che dobbiamo fare 40 punti prima possibile, perché Non so se Reale riesce a salvarsi quest'anno. Ma è tutto vero, eh? Noi abbiamo fatto gli stupidi, è tutto vero. Che ieri dice così, oggi Mourinho dice spero di arrivare presto a 40 punti perché non so se mi salvo. Andrea Zorzi, buongiorno, sei a casa tua. Ciao Andrea. No, sono in treno. No, sei a casa tua qua. Sono con voi, in realtà sono in treno in questo momento, sto per andare a Teramo. E ho appena visto che l'Italia è in finale. Esatto, oggi non cianciamo più di tanto perché c'è questa notizia da commentare, che devi commentare. Dopo sei anni si arriva a giocare una finale europea. Con una squadra che sarà difficile in ogni caso tra Serbia e Russia, anche se Russia mi sembra essere favorita. Ciò che è interessante è che io ho dato un'occhiata un po' a dei dati e quando vedi una partita che finisce 3-0, con parziali abbastanza tranquilli a nostro favore, e col migliore realizzatore, il miglior muratore, il miglior battitore, che tra l'altro è Travizza il palleggiatore, vuol dire che c'è un dominio assoluto. Mi fa piacere perché devo dire che ho avuto qualche preoccupazione ogni tanto quando Berruto faceva delle dichiarazioni di grande concentrazione. Oggi ha fatto una molto bella su Berlusconi, l'hai sentita? No, ricordamela. Ha detto che anche lui dorme solo 4 ore per notte, ma non per il bunga bunga. Porca miseria, dato giù leggero, eh? Dato giù leggero. Chissà se dovessimo vincere se lo chiama per complimentarsi. Ma no, questo non ne ho idea. Intanto speriamo. Però sta di fatto che intanto siamo tornati in una finale dopo qualche anno, meritatamente, battendo una squadra che avevamo battuto qualche mese fa, ma avevamo anche perso nelle finali di World League. Quindi davvero un grande avanzamento di questi ragazzi, proprio bravi, io sono molto contento. Senti Andrea, ieri ho fatto restiamo un attimo sulla pallavolo. L'avversaria esce dall'altra semifinale, Serbia-Russia. Dall'inizio diciamo che la Russia è la stragrande favorita di questo europeo. Ne sei sempre convinto all'alba, alla vigilia di una finale in cui la Russia deve ancora entrare? Noi siamo già entrati, però abbiamo un torneo alle spalle per valutare. È imbattibile? Dunque, se la Russia dovesse giocare come ha fatto in finale di World League, ha veramente un livello fisico e tecnico altissimo. Poi di sicuro non c'è mai nulla, ci mancherebbe altro. Io sono felicissimo di non dare per scontata una finale. È però vero che occorre che o da parte nostra o da parte loro accada qualcosa che va a cambiare le carte in tavola. Perché loro sono in tanti, sono grandi, sono forti, hanno anche acquisito molta sicurezza, sia con la vittoria contro il Brasile in World League, ma poi con andare avanti della stagione, nonostante quella sconfitta contro l'Italia. Vincere con la Bulgaria non è comunque facile. Adesso vediamo cosa fanno con la Serbia, che è una squadra che, come tutte le squadre che vengono da quel territorio, sa perfettamente cosa significa giocare qualunque sport sia, quelli sanno come si gioca, e quindi anche se non sono la formazione migliore possono dare fastidio. È vero che i pronostici sono obbligatoriamente a favore della Russia, poi nello sport siamo i primi a sapere che io tifo per il più debole, quindi tifo per l'Italia. Non so se hai sentito prima, a proposito di deboli e forti, hai sentito me e Massimo Calegari che facevamo gli sciocchi su Mourinho e Guardiola, però è divertentissimo con Guardiola che ha detto sono sicuro che Barcellona non vincerà nulla ieri, e oggi Mourinho ha risposto voglio arrivare presto a 40 punti per salvarmi. Beh, sono anche molto abili come uomini di spettacolo, devo dire. Ma perché non ce li abbiamo noi? O c'hanno qualcuno che gli scrive perché? I testi, in questo caso complimenti agli autori. Non mi importa, è il prodotto, è il risultato che mi interessa da buon italiano. Io voglio personaggi come questi nel nostro sport. A proposito di scaramanzie, anche tu ieri hai fatto di tutto per preparare questa sfida tra Milan e Napoli. Non me ne parlare, che ieri ho fatto, ma ne stavo parlando prima con Massimo Calegari, della cronaca pura, dicendo che il Napoli ha bravi preparatori contro gli infortuni, non ha avuto infortunati fin qui l'anno scorso, gravi infortunati di muscolari, eccetera, di quelli che all'Inter conoscono bene, di quei tipi di infortuni che all'Inter conoscono bene, per esempio, certo. Ma facendo della cronaca, c'è Giorgio De Luca che mi sta facendo le corna dall'altra parte del vetro e che non mi parla più. Noto che stiamo fanno una specie di tiri, la sfortuna di tiri. Ma non lo devo dire, cioè, ma fammi capire. Non sono mica Cellino che oggi li voleva tutti con la maglietta viola. Orca. Sai, comunque, non male davvero. Come? Dai, così alziamo un po' il livello di attesa per la partita di domani, vero? Sì, beh, Massimo, sì. Sbagliamo? No, vabbè, abbiamo detto le cose come stanno, senza, no? Certo, poi bisogna stare attenti poi, perché poi a Napoli su queste cose. E lo so, e allora ci limitiamo a pensarlo, facciamo così. Fai così, dai, fai un buon augurio all'Italia della pallavolo per domani. In bocca al lupo, in bocca al lupo naturalmente, poi domani siamo qui a raccontare come va, non c'è dubbio. Andrea, io ti lascio al viaggio, quando torni qui? Io torno domani, guarda. No, ma qui da noi, sabato prossimo? Dunque, sabato prossimo ci sono sicuramente. Benissimo, dovrebbe esserci anche Massimo Calegari, ci divertiamo un sacco. Dai. Io vedo se riesco a venire, se no fate voi. Va bene, è una grande occasione per tornare veramente in casa Radio 24. Ti aspettiamo qui, grazie Andrea, abbraccio. Sì. Ciao Andrea, a presto. Grazie. No. Torno a parlare invece con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Cosa scrive Andrea? Abbiamo capito che dopo 2 anni di paura stanno tornando le barzellette sull'Inter. Zelig e Colorado ringraziano, questo messaggio di Andrea. Lorenzo, buongiorno. Salve, salve a tutti ragazzi. Vi stavo ascoltando e sto correndo sulle colline di Bologna in questo momento. Sono sopra lo stato d'allarme, sperando che domani il pittore, così chiamato Ramirez, riesca a fare un risultato positivo con il Lecce. Ma a parte questa digressione, il mio intervento voleva parlare di Zeman. Sì. Zeman, perché voi avete prima parlato di Guardiola, di Mourinho. Se magari avessimo allenatori così in Italia, secondo me uno come Zeman non ha nulla da meno come queste persone. Forse non ha vinto quello che ha vinto Guardiola e Mourinho come risultati, diciamo, come trofeo. Fatemi capire. Stiamo parlando di calcio o di personaggi? No, stiamo parlando di calcio. E se parliamo di calcio, Zeman è un allenatore che ha ottenuto dei risultati modesti. Beh, non sono molto d'accordo, comunque. Come quasi nessuno, però io la penso così. Zeman è un allenatore che ha ottenuto risultati modesti. La mia opinione è molto diversa dalla sua, perché non si vede con che materiale lavori e con che contesto lavori. Quando ha allenato a Roma e Lazio, Zeman ha fatto bene. Quando ha allenato squadre di cabotaggio molto piccole, ha fatto risultati straordinari. Straordinari più o meno a fasi alterne, perché dobbiamo ricordare anche gli esoneri, dobbiamo ricordare anche le stagioni non propriamente positive. Poi è anche vero che Zeman, a differenza di molti suoi colleghi, riesce quasi sempre a trovare una panchina, quindi questo insomma dimostra come sia comunque un allenatore molto gettonato. Io continuo a pensare che se non ha mai avuto l'occasione di allenare una grande squadra, la Lazio che allenò lui era una grandissima squadra, era appunto la chance, probabilmente arrivò secondo in campionato, mi sembra, perse in Coppa UEFA Dortmund, non so se erano ottavi o quarti di finale, insomma lì arrivò lì, e probabilmente l'integralismo che lo ha portato a ottenere grandi performance da alcuni suoi uomini in alcune fasi della stagione, poi nei momenti importanti gli è stato anche fatale. Ma certo, perché comunque il grande allenatore, l'allenatore da grande squadra non è integralista nella sua filosofia, è anzi l'allenatore che sa gestire per l'appunto quello che ha a disposizione e sa anche modificare qualche volta le sue convinzioni, cosa che Gasperini non sembra voler fare. Ma neanche Del Neri l'anno scorso la Juve, con Marchisio alla sinistra, esterno a sinistra tutto l'anno. Probabilmente sei un allenatore che arriva lì alla grande chance della sua vita, vuoi comunque dimostrare che hai personalità, vuoi comunque dimostrare. No, secondo me c'è un altro aspetto, e che secondo me, diciamo, questa mia idea viene confermata se questa sera ancora Gasperini riproporrà ad esempio la difesa 3, e che nei momenti di difficoltà o nei momenti in cui ci si gioca qualcosa, si cerca di affrontare l'esame decisivo con le proprie certezze. Cioè si dice, bravo, va bene, esatto, io arrivo lì, mi gioco la vita, lo faccio con le mie idee. Questo è giustissimo. Stasera torna alla difesa 3, è una manovra che è una mossa che io apprezzo, perché dice, se devo affondare, se comunque vado incontro con le mie idee. E secondo me questo è un segno di... Sì, però non ha gli uomini, Carlo. È una scelta abbastanza suicida. Però per una partita come questa, in cui, non ti dico che è ultima spiaggia, Condor, eccetera, è giusto andare verso questa partita con le tue convinzioni. Sì, però se tu pensi che aveva giustificato la scelta di giocare a 4 contro i turchi perché loro giocavano teoricamente con 3 giocatori offensivi, questa sera la Roma fa 4-3-3 e lui cambia ancora, quindi è un po' di confusione c'è. Ultima parte da Tempo di Sport, tra poco voglio giocare un po' con Massimo Callegari. Cosa mi scrivi? Facebook e Twitter per continuare a... Giorgio De Luca, cosa mi hai scritto? Che non leggo, aspetta che lo apro. Per continuare a seguire lo sport di Radio 24, naturalmente, Facebook e Twitter, siamo qui, vi vediamo, vi sentiamo, vi leggiamo, vi rispondiamo per quanto possibile. C'è Giacomo che scrive: Zeman è perfetto per una squadra di media classifica di Serie A o B, in quanto ti permette di raggiungere una tranquilla salvezza divertendoti. Tranquilla salvezza, vediamo, perché non è sempre stato così. Da romanista, Zeman lontano da qui, ricordo partite perse 4-3 dopo che dominavi 3-1. Ciao Roberto. Gianmaria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a Caligari. Buongiorno. Volevo fare due considerazioni. Sono interista, abbastanza così perplesso, perché secondo me sono ritornati i tempi delle battute, ma anche perché concordo con voi che non c'è di progettualità, perché non si prende Gasperini per poi non comprargli un esterno e per fargli fare la difesa 3 quando hai tre centrali che sono fra i più forti forse che ci sono in Europa, ma centrali veri, non da difesa 3. Comunque, a parte questo, devo sapere che rapporto c'è fra la fine dell'era Mancini-Mourinho e il fatto che se ne sia andato Riali, non si è ancora capito perché, e questo ritorno a una situazione dell'Inter un po' così, dove il presidente fa in un modo, probabilmente Branca fa nell'altro, non vanno d'accordo. E poi il fatto di dirci fair play finanziario sta bene, ma se pensa di prendere Guardiola nei suoi sogni un altro anno, non è un allenatore da 1 milione di euro all'anno. No, ma è anche un allenatore che se viene se gli prendi certi giocatori. Se gli prendi dalla piffero, gente, probabilmente col fair play non ha niente a che vedere. No, non c'entra molto col fair play finanziario. Gian Maria, mi sembra, almeno adesso sentiamo Massimo, ma dal mio punto di vista la sua domanda contiene già una risposta. No. Nel senso che c'è un nesso importante tra l'addio di Oriali e tutto quello che è successo. La fine dell'era Mancini, Oriali, Mourinho, eccetera, e la situazione attuale, mi sembra ci sia un nesso di conseguenza logica. Sì, soprattutto Mourinho, perché comunque era stato lui a dare il salto di qualità finale alla squadra, nel senso che con Mancini l'Inter, ti ricorderai, le partite importanti le falliva sempre in Europa, ma anche in Italia. Doveva vincere il derby per trionfare in campionato, perse, poi dovette andare a vincere lo scudetto a Parma, con la Juventus perse la prima partita giocata a San Siro dopo Calciopoli, il ritorno della Juve in Serie A. Quindi secondo me, soprattutto dopo Mourinho, per quello che ha lasciato, per quello che i giocatori davano per lui, per l'impronta internazionale che ha dato a questa squadra e per il fatto che riusciva a dare messaggi anche fortissimi. Magari ti ricorderai che dopo la vittoria dell'Inter a Kiev, che arrivò in una maniera pazzesca, no? Imponderabile tutto, sì. Ci fu un'esultanza da parte di Moratti, della società, incredibile, anche di alcuni giocatori. Lui disse: i vincenti non sono quelli che esultano per una vittoria a ottobre, ma quelli che dopo aver vinto vogliono vincere subito ancora, no? E invece tutto, Moratti, no? Dopo la vittoria della Champions, è chiaro chi comanda, no? Sì. Quando ha detto quella cosa, la prima cosa che viene in mente è chiaro chi comanda. Senti Massimo, mentre Antonella da Siracusa si dice: ma povero Gasp, state proprio sparando sulla Croce Rossa, maledetti! Ma Roma come sarà messa in campo? Sarà messa in campo a quanto pare con Boriello favorito su Osvaldo, pensate un po', addirittura. Ma devo dire che la Roma domenica scorsa con il Cagliari ha giocato una buona partita, facendo alcuni errori clamorosi, individuali, soprattutto a José Anga, che aveva giocato bene fino a quel minuto momento, folle, gol ed espulsione. Per cui l'idea c'è della squadra, Totti si era dato da fare, non mi sembra una squadra così lontana dall'arrivare a un traguardo di identità, ecco. Non mi sembra, anche se Luis Enrique mi sembra che arrivi da un altro mondo, no? Aspetta che ho una domanda per te. Adesso ti sottopongo alla prova più temuta, il quizzone. Abituatevi, perché a me piace, e quindi questa cosa che ho inaugurato nell'estate io la faccio, lo sottopongo ai nostri ospiti così, random e a caso. Allora, Massimo Callegari, la Juventus che è in rosso, è la notizia di ieri, di 95,4 milioni di euro, spende 20 milioni l'anno, 10 netti ai giocatori, per pagare Amauri, Toni e Iaquinta. Tutto questo è legale? No. Gasperini, che voleva Palacio e non vuole Snyder, non ti sembra assomigli un po' a Tafazzi? Sì. Luis Enrique è già un allenatore o è un apprendista stregone? È quasi un allenatore. Che cosa ci fanno Carlo Ancelotti in TV e Degli Orossi a casa sua? Che cosa ci fanno? Uno aspetta di tornare a Londra e l'altro dove? Aspetta l'occasione della vita. E dove l'ha detto tu prima? Io sai che la padronanza e come dire, la proprietà intellettuale non la rubo. All'Arsenal? Possibile, sì. Molto, molto probabile all'Arsenal, per la stagione ventura Arsenal, che ho già perso 4-3. Ultima domanda. Ronaldo, Ronaldinho e Cassano, perché al Milan hanno questa passione per i giocatori sovrappeso e magari anche un po' casi umani? perché gli piacciono le sfide impossibili, vogliono far vedere che quelli che da altre parti hanno fallito oppure sembrano sul viale del tramonto, loro li resuscitano, ma non ci sono imprese impossibili. Ti sei divertito, che però. Spettacolo, sì. Ti sei divertito, eh? Avevo anche un'altra domanda un po' più cattiva e personale, ma alla fine non me la sono sentita. Hai fatto bene. No, perché ti volevo chiedere se ci hai mai provato con Michela Calcagno, ma poi non te lo no, chiedo. No, figurati, a parte che io sono fidanzatissimo, Non te lo però chiedo, no. Infatti non te l'ho mica chiesto. Sì che me l'hai chiesto. Senti, siamo quasi in chiusura, facciamo un po' di pronostici. Per continuare a divertirci, allora tra poco. Io non sono bravo, qui non sono bravo. Io sono pessimo, sono il peggiore di tutti quelli che conosco. Non ne ho mai indovinato uno. Allora, sai di Cellini e maglie viola? Tra poco c'è Cagliari-Novara. Sì. Giochiamo il 17, venite tutti allo stadio con maglie viola. Secondo me non ce n'è neanche una. Comunque, io quest'anno faccio abbastanza il tifo per Novara, che è una squadra che mi è molto simpatica. Questa partita come la vedi? Non so la partita, perché il Cagliari domenica, ripeto, a Roma ha giocato molto bene, però al di là della simpatia il Novara è una squadra che può giocarsela per la salvezza fino alla fine, poi non so se ce la farà, però al di là del campo sintetico che può essere una chiave ma non è l'aspetto principale fondamentale, è una squadra che è costruita negli anni bene, è un ambiente entusiasmante, entusiasta, un allenatore che ha tanta voglia di rivalsa come tessere, quindi va sostenuta e ci credo, insomma, poi dipenderà molto da come partono. Martedì hanno l'Inter in casa. Certo, io ho ancora 30 secondi a Franco da Napoli, che è in linea. Faccio fare invece un pronostico su Napoli-Milan. Dica. Sì, Napoli-Milan, so che Napoli giochi come a Manchester, poi il risultato no, io voglio sapere il segno in schedina. Non ho capito. Il segno in schedina, Napoli-Milan 1x2. Segno in schedina 1. E allora mi dia, già che è lì, anche il segno in schedina per Inter-Roma di stasera. Un 2-2, un over, impreviste, stanno questa settimana, rimangono in panchina tutte e due, poi si vedrà la prossima. Grande Franco, grazie a Franco da Napoli, purtroppo siamo in chiusura. Grazie, a prestissimo. Massimo, spero sabato prossimo tu certo, possa essere qui, così volentieri. Preparo un altro quizzone. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro La Corte in regia, ci sentiamo domani dalle 4:30 alle 7, vi aspetto qui.